tribunale di Piazzale Clodio, dove c'era un ingente spiegamento di forze dell'ordine assolutamente superiore a quello che necessitava la piazza. E il presidio ha mandato un messaggio chiaro, politico, di solidarietà a chi è stato arrestato il 15 ottobre e nei giorni successivi, perché per quanto possano essere state le divisioni all'interno del movimento in queste tre settimane, chi ha deciso di scendere in piazza oggi ha mandato questo messaggio: chi è in galera o agli arresti domiciliari lo difendiamo senza ombra di dubbio, non lo lasciamo da solo nelle mani della cosiddetta giustizia di questo Stato, non li lasciamo da soli e da sole, siamo qui, continueremo a seguire la vicenda nei prossimi giorni e ci batteremo per richiedere la loro liberazione e cercheremo di manifestargli la nostra solidarietà anche scrivendo delle lettere, sottoscrivendo al conto corrente di Radio Onda Rossa per le spese legali, cerchiamo di fare sentire la nostra vicinanza anche alle famiglie, ai genitori che, come potete immaginare, stanno soffrendo per il fatto che i loro figli e figlie si trovano in carcere in questo momento. Va bene, perfetto. Insomma, come hai detto tu, la miglior risposta alle divisioni che hanno accompagnato la fase post 15 ottobre, che ad esempio ha avuto nei media, nei social network, dei riflessi insomma preoccupanti, no? Per quanto riguarda l'instaurazione di un dispositivo che vuole rendere le persone ancora più complici delle regole in gioco che imposta il potere, insomma, e bisogna far emergere il fatto che c'è una parte di società che invece non la pensa così e che ha tutt'altre sensibilità. Speriamo tra l'altro che la campagna delatoria insomma non si riveli più fruttuosa di quanto già non lo è stato. Uno degli arrestati ad esempio sembra che sia stato proprio additato da una persona che lo ha riconosciuto, quindi già è troppo quello che è successo, e quello di oggi, il presidio di oggi alludeva anche a questo, no? Sì, permettimi di aggiungere che questa campagna delatoria infame che avevamo già visto quest'estate a Londra, penso che tutti e tutte si ricorderanno gli appelli lanciati dal governo, dalle forze di polizia ai cittadini londinesi di collaborare per arrestare chi aveva partecipato alla rivolta in tono minore, ma purtroppo l'abbiamo visto anche qui a Roma e in Italia in generale, per cui c'è una parte di società, come dicevi tu, di compagni e compagne che respinge con forza questa campagna di delazione e prova a spezzare questo muro di gomma da cui siamo schiacciati, a dire no, noi la solidarietà la esprimiamo a prescindere, odiamo il carcere, non vogliamo che nessuno e nessuna passi neanche un giorno là dentro. Ricordo solo che il tribunale del riesame è ancora in corso. C'è stata l'azione di riesame per i primi sei e ce ne sono ancora cinque adesso che sono all'interno dell'aula, dove si svolge a porte chiuse l'udienza appunto, e noi aspettiamo, seppur in pochi, comunque che escano le avvocate per avere informazioni complete di prima mano. Comunque come molti di voi sapranno, il riesame non si pronuncia il giorno stesso e quindi si riserva di comunicare la sua decisione nei prossimi giorni. Ci auguriamo che escano il prima possibile. Perfetto, allora ti sei espresso anche per ciò che riguarda proprio la concretezza di questa giornata, e cioè l'attesa per il pronunciamento del Tribunale del Riesame, un pronunciamento che avverrà nei prossimi giorni, speriamo positivo. Grazie Marco e a risentirci. Grazie, buona giornata, ciao.